America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da Charlotte, dalla Convention Democratica. Mario Platero. Madam Chairwoman, delegates, I accept your nomination for President of the United States. Barack Obama, lo avete sentito, accolto in modo trionfale dalla sua convention. Il presidente è arrivato alla fine di questa convention chiedendo, implorando gli americani di votarlo, perché dice davanti al paese c'è una scelta molto chiara, una scelta tra l'andare avanti, forward, il motto della sua campagna, e andare indietro. I repubblicani, ha detto, ci vogliono portare indietro. Il suo è stato un discorso appassionato, energico, ha ritrovato la grinta dei vecchi tempi, soprattutto si è potuto permettere di non entrare nei dettagli, perché nei dettagli economici c'era entrato Bill Clinton nel discorso dell'altra sera, e in quelli di politica estera c'è entrato John Kerry, il suo padrino politico, il capo della commissione esteri del Senato. Il presidente dunque si è concentrato su tematiche più di visione, su quelle che sono le vere scelte per gli americani. When you pick up that ballot to vote, you will face the clearest choice of any time in a generation. Quando sarete al voto avrete una scelta molto chiara, la scelta più chiara in una generazione, dice Barack Obama. Nei prossimi anni si dovranno prendere decisioni importanti a Washington sul lavoro, sull'economia, sulle tasse, sui disavanzi, sull'energia, sull'educazione, sulla guerra e sulla pace, decisioni che avranno un impatto enorme sulle nostre vite e sulle vite dei nostri figli per decenni a venire. And on every issue, the choice you face won't just be between two candidates. E qui siamo al punto centrale con cui Obama ha cercato di illustrare il suo caso, il caso per avere il voto di nuovo, per essere confermato per altri 4 anni, perché secondo lui la differenza è talmente chiara da non prestare dubbi. Il presidente dice, su qualunque tematica la scelta con cui vi confrontate non è soltanto fra due candidati o due partiti, è una scelta fra due diversi modelli, percorsi per l'America, e una scelta fra due visioni fondamentalmente diverse per il futuro. E poi dice, io non pretendo che la strada che vi offro sarà la più facile, non ho mai preteso quello, mi avete eletto però perché io vi dicessi la verità, e la verità è che ci vorranno alcuni anni per poter risolvere le sfide che si sono costruite nel corso di decenni. Dunque qui il presidente torna all'attacco, ha ereditato una situazione davvero difficile, e dunque non poteva essere immaginabile uscire dalla situazione in cui ci si è trovati nei 4 anni in cui lui ha governato. È stato un miracolo, ha detto, che la situazione sia come sia adesso. Poi la promessa per il futuro. But know this, America. Our problems can be solved. Sappi questo, America, i nostri problemi possono essere risolti, le nostre sfide possono essere incontrate, il percorso sarà più difficile ma ci porterà in un posto migliore. Io vi chiedo di scegliere per quel futuro, vi chiedo di aiutarmi e di mobilitare l'America per poterci dare degli obiettivi nel settore manifatturiero, nell'energia, nell'educazione, nella sicurezza nazionale. Per questo, dice, io sto correndo per un secondo mandato come Presidente degli Stati Uniti d'America. Poi Barack Obama, in questo lungo discorso, ha elencato i suoi obiettivi per l'America, per esempio nel settore manifatturiero, vuole creare 1 milione di nuovi posti di lavoro prima del 2016, vuole raddoppiare le esportazioni prima del 2014, vuole diminuire nel settore energetico le importazioni di petrolio del 50% per il 2020, vuole creare 600.000 nuovi posti di lavoro nel settore del gas naturale prima della fine del decennio, nel settore dell'educazione vuole ridurre il tasso di crescita delle spese per andare all'università del 50%, vuole assumere 100.000 insegnanti di matematica e di scienza nei prossimi 10 anni, vuole addestrare 2 milioni di lavoratori di modo che possano aiutare meglio le loro comunità se hanno perso il loro posto di lavoro. Sicurezza nazionale, è meglio investire in un'economia solida piuttosto che buttare i soldi nelle guerre. Disavanzo, infine, ridurre il deficit di 4.000 miliardi di dollari nel prossimo decennio. America 24. Bene, devo dire, è stata una serata entusiasmante, abbiamo visto un filmato sui militari, abbiamo visto Caroline Kennedy, abbiamo visto senatori, deputati, l'ex governatore del Michigan ha infiammato la platea, ha fatto, devo dire, una requisitoria contro i repubblicani davvero ammirevole. Ha parlato Joe Biden, un uomo straordinariamente leale, il vicepresidente, ha ricordato quanto forte sia il loro rapporto, ma forse l'intervento più importante è stato quello di John Kerry, il presidente della commissione esteri del Senato, l'uomo che ha lanciato Barack Obama nella classe della politica nazionale alla convention di Boston del 2004, quando Barack Obama era un giovane, era un signor nessuno, non era neanche senatore. Ebbene, così come Bill Clinton ha difeso l'operato economico di Barack Obama, Kerry ha difeso la sua politica estera, e devo dire è stato molto bravo, perché da un certo punto di vista il compito è facile, perché il 55% degli americani ritiene che Barack Obama abbia avuto successo in politica estera. Vi ricordo, la media è del 46% di indice di gradimento, e per l'economia l'indice di gradimento è del 44%. Ma Barack Obama, in effetti, come ha ricordato, ha ucciso Osama Bin Laden, ha fatto sì che la Libia potesse essere destabilizzata e che Gheddafi fosse a sua volta giustiziato, ha favorito il disarmo nucleare, ha cercato di mettere nell'angolo l'Iran, ha stabilito comunque un rapporto buono con Israele, visto che Netanyahu dice le nostre politiche sono le stesse. But not Mitt Romney. Ecco, è stato anche un discorso leggero, c'è stata anche la battuta, qui Kerry dice, ma scherzate a Mitt Romney, Mitt Romney dice che la Russia è il nemico geopolitico numero uno degli Stati Uniti d'America. Beh, io non so da che parte vede la Russia Mitt Romney, so che Sarah Palin diceva di vederla dall'Alaska, e beh, io credo che forse Mitt Romney la vede soltanto attraverso il film Rocky 4. Our opponents like to talk about American exceptionalism. Infine, parlando dell'eccezionalismo americano, che Romney dice si va diradando, è stato perduto sotto Barack Obama, beh, Kerry lo riafferma naturalmente, e soprattutto dice il vero eccezionalismo lo abbiamo nel nostro presidente, rieleggetelo. America 24. Il discorso di Barack Obama dunque chiuso questa convention democratica. A questo punto si passa al confronto diretto, si passa agli ultimi 60 giorni, si passa ai dibattiti. Con me Christian Rocca in linea, microfono di America 24, anche lui qui a Charlotte alla convention, sono stati insieme anche a Tampa, insomma, beh, abbiamo chiuso intanto una maratona, Christian. Meno male, però è talmente bella che non vedo l'ora che arrivano i prossimi 4 anni e le prossime 2 convention. Ecco Christian, allora facciamo un po' un bilancio di questa convention democratica, e ti dico la mia impressione è che diciamo quella repubblicana forse non ha cambiato poi alla fine granché, cioè è servita, hanno attaccato i democratici si sono difesi molto bene col discorso di Clinton soprattutto, ma anche con quello di Kerry su politica estera, insomma sono riusciti in qualche modo a rimettere un po' al centro del dibattito quello che hanno fatto, però secondo me c'è un problema di fondo, e cioè che alla gente forse non piace così tanto Barack Obama. Ecco, secondo te può essere un problema che fa la differenza a novembre? Lui certamente ha un problema di empatia, non è uno come Clinton, non è uno come Bush, non è uno di quelli con cui la gente vorrebbe andare a prendersi una birra. Polemica di questi ultimi giorni del fatto che lui aveva promesso che avrebbe invitato la Casa Bianca a farsi una birra i membri del Navy SEALs che hanno ucciso Osama Bin Laden su suo ordine, ma poi non l'ha più fatto. E questo è un problema, lui è molto, appare molto più distaccato, è un po' accademico, un po' professorale, e questo piace un po' meno all'americano medio. Ecco, si diceva, lo diceva anche te, che sono stati movimenti per cercare di accontentare un po' tutti, le parti gay, la sinistra, le minoranze, eccetera, però adesso c'è il confronto diretto. Ecco, da oggi in avanti, secondo te, entrambi si sposteranno più verso il centro dopo essersi spostati agli estremi? È abbastanza obbligatorio, perché la partita si gioca in pochi stati, e addirittura ancora più sottile il margine tra l'uno e l'altro, e in questi stati chi vince se riesce a recuperare quel margine di elettori indipendenti, elettori indecisi. Il prossimo passaggio è quello dei dibattiti tra i due candidati. Ce ne saranno 3, ce ne sarà anche un altro molto importante tra i vicepresidenti, perché bisognerà vedere all'opera il nuovo candidato Paul Ryan, però insomma guardando da qui ai prossimi dibattiti si potrà capire davvero se chi dei due è in grado di convincere l'americano medio. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sti tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Grande, grande serata ieri al Convention Center di Charlotte, perché ha cantato a un certo punto emozionando la platea James Taylor. La canzone di oggi è una canzone simbolica, visto che questi fratelli democratici si lasciano, si ritroveranno fra 4 anni in altre occasioni politiche. Di James Taylor, You've Got a Friend. When you're down and trouble and you need a helping hand and nothing, oh, nothing's going right, close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just call up my name, and you know wherever I am, I'll come running. Winter, spring, summer, or fall, all you got to do is call, and I'll be there, yeah, yeah, yeah. You've got a friend. Da Charlotte è tutto, Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going. America.